Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a tutti al nostro, anzi soprattutto al vostro, Salva Danaio. Allora, è apparsa nei giorni scorsi sui giornali una notizia che ci ha incuriosito parecchio, perché secondo questa notizia addirittura un tribunale di Milano avrebbe gestito una causa collettiva nei confronti di una grande banca per la questione ormai vecchia di un anno e mezzo, Lehman Brothers. Eppure ci siamo chiesti, ma insomma la class action è entrata in vigore nel nostro paese da appena pochi giorni, è possibile che ci sia già qualcuno che ne abbia vinta una? Quindi coglieremo l'occasione di questa vicenda anche per fare un po' di chiarezza su questi punti. In ogni caso c'è stata un'azione collettiva promossa da un'associazione dei consumatori, dal Movimento Consumatori, e secondo, in seguito a questa azione collettiva, appunto, il Tribunale di Milano avrebbe accertato che CNP Vita, una compagnia di assicurazione oggi controllata dal gruppo Unicredit, avrebbe avuto un comportamento, così stabilisce questa ordinanza del Tribunale di Milano, gravemente lesivo nei confronti di 6.500 famiglie italiane che hanno acquistato qualche anno fa polizze vita collegate a titoli emessi dalla Lehman Brothers. Questo è il presupposto. Allora, questa sentenza è della fine di dicembre, è stata resa nota qualche giorno fa e ha scatenato un certo scalpore, anche perché, come ricorderete, questa compagnia, come hanno fatto molte altre società nel nostro paese, aveva proposto un piano di risarcimento a tutti i sottoscrittori di questo prodotto. Il risarcimento proposto a queste 6.500 clienti, appunto, di CNP Vita, lo ricordo, una compagnia tra l'altro della ex Capitalia, è stato un risarcimento giudicato evidentemente insoddisfacente dal Movimento Consumatori, che quindi ha avviato questa causa appunto al Tribunale di Milano, azione che si è conclusa, come vi dicevo, con la pronuncia di due giorni fa, con questa ordinanza di due giorni fa. Allora, a questo punto questa situazione ha aperto intanto un po' le speranze a queste famiglie che ritengono adesso di poter intraprendere delle azioni risarcitorie individuali per poter rientrare in possesso anche del resto del capitale appunto investito in questi prodotti. Però insomma, noi vorremmo anche cercare di capire esattamente cosa c'è dietro a questa ordinanza del Tribunale di Milano, che cosa ha detto la banca, come si sta difendendo, perché peraltro c'è anche un'altra sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che invece ha definito una questione totalmente contraria, cioè ha dato ragione in questo caso alla banca sempre per il medesimo prodotto, e poi cercheremo anche di capire se ci sono altre situazioni in sospeso. Insomma, su Lehman Brothers credo che dovremo parlare ancora a lungo, ma intanto stamattina fermiamoci qui, e noi abbiamo chiamato per chiarire questa situazione intanto l'avvocato Paolo Fiorio, coordinatore dell'Osservatorio Credito e Risparmio del Movimento Consumatori, che praticamente è colui che ha ottenuto questo risultato al Tribunale di Milano. Avvocato Fiorio, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere con noi questa mattina, così come ringraziamo anche la controparte, l'avvocato Daniele Sciarrillo, legale invece per Unicredit, appunto, di CNP Vita. Spero di aver detto tutto correttamente. Avvocato Sciarrillo, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. E naturalmente io ho dovuto chiamare anche un super partes per capirci qualcosa di più, perché quando ci addentriamo nelle aule di tribunale ne usciamo sempre un po' a pezzi. Allora, il professor Edoardo Spano, professore di diritto commerciale all'Università di Parma, legale anche in Milano. Praticamente il professor Spano mi sta aiutando. Non appena è scoppiato a Lehman Brothers, lo abbiamo sempre interpellato per aiutarci a capire dove stesse andando per molti risparmiatori questa situazione. Questa mattina l'abbiamo riconvocato di nuovo, quindi le attribuisco proprio il ruolo di giudice super partes questa mattina. Professore, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, se ci fosse qualche ascoltatore all'ascolto di questi 6.500, ma anche qualcun altro, insomma, detentori e sottoscrittori di polizze CNP Vita Performance 05 06 07 08 09, perché tra l'altro va ricordato che questa compagnia di assicurazione di polizze indicizzate a titoli Lehman ne aveva messe di 13 tipi, ma nel mirino in questo momento ci sono, sì, professor Spano, adesso la faccio intervenire, ce ne sono anche di altri tipi, per cui bisognerebbe capire anche se anche quest'altro gruppo di polizze, appunto, potrebbero potrebbero essere interessati in qualche maniera in futuro anche ad una iniziativa in tribunale, appunto, di questo tipo, un'ordinanza di questo tipo, sentenze di questo tipo. Allora, cominciamo, vi do rapidamente la borsa. Dopo i cali di ieri, oggi di nuovo ribasso ovunque. Parigi perde mezzo punto, Francoforte mezzo punto, Londra mezzo punto, Milano meno 0,38%, ma il tema di stamattina è talmente interessante, soprattutto avendo tre ospiti, direi di farlo partire immediatamente con l'avvocato Fiorio del Movimento Consumatori, ricordando appunto 800 24 00 24 agli ascoltatori che volessero intervenire. Allora, intanto, l'ordinanza del Tribunale di Milano è stata pubblicata, se non ho capito male, avvocato, alla fine di dicembre, resa nota qualche giorno fa. E voi avete presentato ricorso ad inizio ottobre. La prima cosa che mi viene in mente è la faccia del processo breve. Qua mi pare di capire che il Tribunale abbia vi abbia accontentato subito, in sostanza, no? Come mai intanto un tempo così accelerato? Ma allora, noi abbiamo presentato il ricorso a fine maggio e poi c'è stata una prima decisione che non ha dato ragione all'associazione, abbiamo fatto il reclamo e abbiamo ottenuto l'ordinanza di cui lei ha parlato. Così breve il tempo perché abbiamo seguito un procedimento cautelare, perché il comportamento che CNP ha posto in essere nella primavera dello scorso anno era un comportamento gravemente lesivo degli interessi dei consumatori che richiedeva una reazione immediata. I tempi della giustizia ordinaria non sarebbero stati adeguati per ristabilire un complesso di informazioni corrette che invece erano state distorte da parte della compagnia. Allora, quello che io ho ricordato, avvocato, all'inizio è che CNP Vita, tramite Unicredit, aveva già stabilito per i sottoscrittori di queste polizze un piano di risarcimento, come hanno fatto molte altre società di assicurazione nel nostro paese, appunto proprio per tutelare i sottoscrittori di polizze agganciate a Lehman Brothers. Voi nel vostro ricorso non contestate tanto la mole del risarcimento, l'entità del risarcimento proposto dalla compagnia, quanto invece le modalità di comunicazione con cui la compagnia appunto ha proposto il risarcimento ai contraenti. Questo mi pare di capire sia successo, giusto? Sì, è così, nel senso che la compagnia ha mandato delle comunicazioni con le quali ha affermato e ha tratto in inganno migliaia di consumatori circa il fatto che queste polizze non prevedevano un obbligo di restituzione del premio versato da parte della compagnia, ma questo il diritto in caso di scadenza della polizza era legato all'andamento dei titoli della Lehman Brothers, ed essendo i titoli della Lehman Brothers in default il valore della polizza era sostanzialmente azzerato. Allora, cosa ha fatto la compagnia? La compagnia a questo punto ha avviato questa iniziativa, che l'ha chiamata iniziativa straordinaria a tutela dei consumatori, degli investitori che avevano sottoscritto questi prodotti, comunicando due diverse proposte. Il problema di fondo è che invece queste polizze, in maniera molto chiara, così come ha riconosciuto il Tribunale di Milano, prevedevano espressamente che alla scadenza il premio dovesse essere restituito dalla compagnia, il premio, e non un controvalore legato al titolo Lehman Brothers. Questa è un'assoluta invenzione da parte di CNP Vita che proprio grazie a questa informazione cosa ha fatto? Ha tratto in inganno migliaia di investitori che, di fronte alla prospettiva paventata di perdere tutto l'investimento, si sono trovati costretti a sottoscrivere una delle due offerte, delle quali una prevedeva una restituzione di un importo pari al 50% del premio versato, la seconda la trasformazione della polizza in una nuova polizza con una scadenza nel 2012, che comunque nel 2012, a prescindere dal decorso del tempo, non avrebbe consentito la restituzione dell'intero capitale. Mi scusi, avvocato Fiorio, no, per essere anche un po', come dire, attenti nella terminologia che utilizziamo, lei dice ha tratto in inganno, il Tribunale di Milano però dice probabilmente ha tenuto un comportamento lesivo. Il fatto di utilizzare questa, come dire, opzione di probabilità vi suggerisce che in qualche maniera il Tribunale non è totalmente convinto della decisione? Adesso non lo so, sto proprio chiederò no, anche agli altri legali. Il Tribunale, se si legge tutta l'ordinanza, è pienamente convinto. Quel probabilmente, lo è spiegato nell'ordinanza, è dovuto al fatto che il Tribunale ha giudicato nell'ambito di un giudizio cautelare, cioè nell'ambito di un giudizio d'urgenza, ha valutato i documenti, anche perché in questo caso la causa riguardava solo i documenti e non altri fatti che possono essere diversamente provati, e quindi ha detto, siccome siamo in una procedura cautelare, in un qualche modo affermiamo il principio, pur con il dubbio che potrebbe essere approfondito poi in un eventuale giudizio di Benissimo. Merito nelle cause individuali. Avvocato, adesso la fermo, vorrei andare dalla controparte. Avvocato Sciarrillo, eccomi a lei. Allora, sì, una serie di precisazioni. Sì, sì, sì, gliele faccio fare tutte quante, solamente vorrei partire però da una cosa che il Tribunale ha stabilito e vi ha ordinato la compagnia CNP ad inviare entro il 31 marzo una comunicazione a clienti di queste polizze in cui nella sostanza si riconosce di aver indotto il cliente in errore appunto con le comunicazioni precedenti relativi proprio a questo piano di risarcimento. In sostanza le chiedo intanto se la banca ottempererà questo impegno e poi tutte le precisazioni appunto che vuole fare su quanto ha detto prima l'avvocato Fiorio. Sì, allora il provvedimento ordina alla banca di inoltrare queste missive in cui in realtà non si riconosce nulla, ma si riporta semplicemente quella che è l'opinione del Tribunale di Milano sul fatto che probabilmente appunto non c'è stata una totale trasparenza nella parte in cui, ad avviso del Tribunale, la compagnia non avrebbe indicato la possibilità o il dubbio sull'interpretazione delle polizze stesse. Quindi con queste missive la compagnia non riconosce nulla, ma si limita appunto a riportare quella che è una valutazione del Tribunale, valutazione, ripeto, formulata in termini molto dubitativi, appunto perché, contrariamente a quanto dice il legale dell'associazione dei consumatori, probabilmente non è dovuto alla natura cautelare del provvedimento, ma è dovuto al fatto che il collegio non è affatto convinto della presunta mancata trasparenza da parte della compagnia. E il tribunale non ha detto che la compagnia ha tratto in inganno, assolutamente questo non l'ha detto, e non ha, contrariamente a quanto si legge su notizie di stampa, non ha condannato la compagnia a rimborsare alla scadenza il premio, né tantomeno ha condannato la compagnia a rimborsare il premio anche a coloro che avevano aderito alla campagna di Costa. Ma su questo mi sembra che siamo stati, speriamo avvocato, abbastanza chiari. Detto questo, altre precisazioni ancora da fare? No, perché mi chiedo, 13 polizze indicizzate al medesimo titolo americano, come mai proprio tutta l'attenzione si è concentrata su queste? La compagnia ha fatto comunicazioni diverse a seconda della tipologia di polizza, perché abbiamo anche dello stesso tipo Artemide, Capital, io ho gli altri titoli, appunto le altre polizze con le altre denominazioni, e per tutte quante è stato proposto un piano di risarcimento. Come mai tutta l'attenzione è accentrata, avvocato, proprio su queste performance? La comunicazione è stata fatta in maniera diversa alla clientela? No, la comunicazione riguardava tutte le 13 tipologie di polizze, e questo dimostra la perfetta buona fede della compagnia, atteso che l'obiettivo della compagnia era all'epoca, come lo è tuttora, visto che il 95% dei sottoscrittori ha aderito a questa campagna, era quella di tutelare i clienti dalle conseguenze pregiudizievoli conseguenti al fallimento di Lehman. Il fatto che la controparte si sia focalizzata sulle performance è presumibile che sia dovuto al fatto che, ad avviso di controparte, mentre tutte le altre polizze sono disciplinate da clausole che escludono in maniera chiarissima l'assenza di ogni garanzia da parte della compagnia a pagare il premio, a rimborsare il premio alla scadenza, su quel prospetto di quelle forse non era così chiaro. Ad avviso di controparte le performance, le clausole che disciplinano le polizze performance sono, cioè, si presterebbero a un'interpretazione di forme. Benissimo. Allora, voglio precisare, per cortesia, che qui non è stata condannata la banca, non c'è nessuna condanna, ma la controparte è la compagnia CNPE, che sentivo prima sarebbe controllata invece partecipata mi scusi, sì. Per di più con una partecipazione di minoranza. Contrariamente a quanto viene riportato nei giornali, non è una class action, perché appunto... Sì, l'abbiamo detto. Poi andremo anche all'articolo 140 del codice del consumo. Avvocato, non voglio voglio essere maleducata, devo solo andare in pausa perché abbiamo anche noi i nostri impegni pubblicitari, per cui che non ci fosse nessuna condanna in termini proprio anche di oneri finanziari, lo abbiamo già detto all'inizio. Qui si tratta solamente di un'ordinanza che riguarda la modalità con cui praticamente ai contraenti di queste polizze è stato comunicato il piano di risarcimento sulla base appunto di quanto era successo con il default di Lehman. Ci ritorneremo, se non vogliamo fare una questione di lana caprina, ma la terminologia legale qualche volta veramente è talmente complicata per cui anche noi dobbiamo abituarci ad essere precisi anche in quello che diciamo, giustamente. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Allora, questa mattina volevo intanto, visto che gli ascoltatori stanno ascoltando questa trasmissione, stiamo parlando di questo clamoroso crack finanziario di un anno e mezzo fa, Lehman Brothers, che ovviamente ha coinvolto molti italiani che avevano sottoscritto obbligazioni Lehman direttamente oppure polizze vita con rendimento agganciato e indicizzato appunto a titoli della Lehman, e ci stanno sollecitando anche su altri casi di risparmio tradito, chiamiamoli così, per chi ancora ci chiede di ritornare sui bond argentini. Allora, è in Italia da ieri il presidente dell'American Task Force Argentina, Robert Shapiro, noi lo intervisteremo oggi pomeriggio. Lunedì ritorniamo con Nicola Stock, presidente della TFA italiana, della Task Force Argentina italiana, a Salva Danaio su questo argomento, per cui non ci vorrei più tornare almeno questa mattina. E invece noi parliamo oggi di Lehman Brothers, come vi dicevo, di questa partita di polizze distribuite da CNP Vita all'inizio degli anni 2000, se non ricordo male, non so se poi siano state vendute tutte in quel periodo, di questa partita che è stata oggetto di una decisione del Tribunale di Milano che ha in sostanza con un'ordinanza chiesto alla società emittente, appunto CNP Vita, oggi partecipata, non controllata dal gruppo Unicredit, di fare un po' di chiarezza informativa appunto alla propria clientela, perché il Tribunale dice in sostanza alla banca probabilmente ha tenuto un comportamento lesivo verso i contraenti di queste polizze, non comunicando correttamente quello che era stato anche come dire, proprio il rendimento, come si matura di queste polizze. Sostanzialmente il tribunale dice: quello era un prodotto a rendimento garantito, quindi non potevate dire alla clientela che fallendo Lehman Brothers loro non avrebbero più potuto riottenere niente, pertanto noi vi risarciamo secondo appunto quello che possiamo in questo momento. Adesso l'ho detta un po' proprio come dire in maniera leggera, forse un po' banale, cerco di farmi spiegare, ma la situazione è molto complicata. Di fatto, prima di ritornare ai due legali che si sono contrapposti su questa vicenda, volevo rivolgermi al Super Partes, che ho chiamato questa mattina per fare anche un po' di chiarezza su come è passata l'informazione un po' sui giornali, perché qualcuno ha detto è una causa, una class action contro Unicredit. Avvocato Spano, professor Spano, perché le fa doppio lavoro, in realtà non è così, quindi spieghiamo un po' bene anche questo passaggio che è molto delicato. Beh, innanzitutto la legge sulla class action è noto che in Italia ha avuto un percorso assai accidentato. Io personalmente ho molte perplessità su questo nuovo strumento. Qui in realtà si tratta di qualche cosa che è sempre esistito, cioè di un'azione promossa da alcune migliaia di persone, in quanto associati evidentemente a questo movimento dei consumatori, e quindi diciamo che è un'azione che ha avuto, diciamo, un impatto particolare in quanto appunto promossa da alcune migliaia di persone. Ripeto che si tratta di un provvedimento, come è già stato detto d'altra parte, un provvedimento di carattere cautelare, quindi un provvedimento ponte nei confronti di un giudizio di merito che non è stato, quanto mi risulta, finora iniziato, il quale dovrà invece accertare quali sono effettivamente i doveri dell'uno o dell'altra parte reciprocamente. E tra l'altro, no, per spiegare ancora di nuovo, ritornare un po', non vorrei, come dire, infierire, soffermarmi troppo a lungo su questo, però in realtà l'articolo 140 del codice dei consumatori permette appunto di intraprendere azioni collettive ancora prima che la class action entrasse in vigore nel formato in cui lo abbiamo da praticamente il 1 gennaio, solo che, come specificava Laura Serafini, la collega di Roma bravissima che ha scritto il pezzo proprio su questa vicenda, consente il riconoscimento di un principio ma non la possibilità di ottenere un risarcimento. Su questo anche l'avvocato di CNP è stato molto chiaro: questa ordinanza stabilisce appunto, contesta la modalità con cui la banca ha fatto la comunicazione alla clientela, ma non stabilisce nessun tipo di risarcimento. Certamente, perché è un'ordinanza appunto in esito a un provvedimento che ha un'efficacia temporanea e comunque non può dar luogo a alcun tipo di condanna di nessun genere. Ma questa ordinanza potrà avere, secondo lei, qualche ripercussione, qualche riflesso su giudizi futuri, professor Spano? Evidentemente è una presa di posizione, secondo me, piuttosto chiara di questo collegio, intendiamoci, evidentemente poi la sesta sezione del Tribunale di Milano è composta da 10 giudici, non c'è più, come sappiamo, il rito societario, quindi ciascun giudice decide come singolo, e quindi abbiamo 10 possibili varianti, diciamo, in future decisioni dello stesso Tribunale di Milano. Però noi abbiamo in questo caso un provvedimento estremamente motivato, sono 14 pagine fittissime, mm-hmm. in cui per parecchie pagine si motiva quali sono state le perplessità. In realtà bisogna rivolgersi a quello che è l'oggetto di questo giudizio. L'oggetto di questo giudizio non riguarda minimamente l'Iman, riguarda soltanto la transazione intercorsa fra la CNP e i risparmiatori, riguarda appunto il fatto che sì, è stato sostenuto che evidentemente i risparmiatori sono stati indotti ad accettare mm-hmm. questa transazione in quanto gli era stato prospettato l'impossibilità di qualunque altra soluzione positiva se non nei confronti della procedura concorsuale di Lima, e evidentemente con tutti gli incognite del caso. Il Tribunale, ripeto, con una motivazione estremamente dettagliata e secondo me anche molto chiara, ha precisato che in realtà questo obbligo del risarcimento in capo invece all'emittente del titolo, cioè NP, in realtà sussiste, però lo ha detto in maniera cauta, cioè sì. ha usato giustamente nella stessa comunicazione che dovrà poi inviare alla CNP alla clientela la parola probabilmente, e ha spiegato il perché del probabilmente, cioè perché appunto si tratta di un provvedimento non decisorio, e quindi evidentemente ha voluto lasciare libero il futuro giudice, che sia poi uno dei giudici del Tribunale di Milano o altri giudici, di decidere evidentemente in difformità. Naturalmente questo può avere un certo valore suggestivo, nel senso che questo collegio era presieduto dal presidente titolare della sesta sezione, il relatore è la dottoressa Simonetti, che è un giudice molto esperto e molto valido su questa materia, però questo non impedisce a chiunque della stessa sezione o di altre sezioni, di altri tribunali, di stabilire in maniera completamente diversa, completamente opposta, come è successo per esempio a Bustarzizio, come ci ha raccontato appunto prima l'avvocato Sciarillo, appunto per la parte CNP Unicredit, che adesso rifaccio intervenire, però vorrei chiedere anche un altro paio di cose all'avvocato Fiorio del Movimento Consumatori. Intanto eravamo rimasti in sospeso sulla questione perché vi siete accaniti, incaponiti proprio su Performance 5, 6, 7, 8, 9 e non sulle altre polizze vita di CNP, per l'appunto, che pure erano polizze index linked e quindi cui rendimenti erano agganciati, avevano come sottostante obbligazioni Lehman Brothers. Solo in questa avete riscontrato questo difetto di comunicazione, avvocato Fiorio, chiamiamolo così? Ma sì, questo, come l'ha chiamato lei, in termini eufemistici, difetto di corretta comunicazione, era del tutto evidente, a nostro avviso pacifico, con riferimento a queste polizze. Di conseguenza l'associazione ha individuato nelle polizze Performance il caso da sottoporre all'attenzione del tribunale. Sulle altre si può naturalmente discutere, poi ci sono anche dei profili che possono essere valutati a livello individuale, mentre in questa situazione, cioè per le polizze Performance, siamo in presenza di un illecito, quello posto in essere da CNP Vita, che è del tutto identico per tutti quelli che sono i soggetti che le hanno sottoscritte. Di conseguenza era proprio il contenuto di queste polizze che ci ha portato a chiedere al Tribunale di cercare di ristabilire la correttezza dell'informazione, cosa che siamo appunto riusciti a fare. Va bene. Che non si tratti di una class action, questo è pacifico, concordo, e mi sembra che il professor Spano abbia correttamente ricostruito i termini del problema. Devo però sottolineare che il codice del consumo consente queste azioni, che sono azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, e quindi riguardano la collettività dei consumatori, il gruppo dei consumatori che può essere leso da un comportamento scorretto di un'impresa, e sono degli strumenti che sono vigenti da molto tempo e sono utilizzati in particolare dalla nostra associazione in situazioni simili. Infatti, solo che, come abbiamo precisato, l'obiettivo in ogni caso non può essere quello del risarcimento in termini proprio finanziari ed economici. Qua l'articolo 140 appunto del codice del consumo permette di ottenere un risultato di tipo diverso. Avvocato Fiorio, 6.500 famiglie seguite, giusto, in questa vicenda, investimento medio? all'investimento medio che noi abbiamo calcolato dovrebbe superare i 25.000 euro, sono delle stime, 6.500 sono i soggetti che hanno sottoscritto queste polizze, che a nostro avviso in questa situazione hanno diritto, come peraltro anche affermato tra le righe dal Tribunale di Milano, ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, la restituzione. Infatti a questo punto bisognerà capire che cosa succederà, perché di fatto si apre questa opzione. Voi che cosa avete intenzione di fare adesso? Così almeno faccio preparare anche l'avvocato Sciarrillo e gli do modo di difendersi per tutta l'ultima parte della trasmissione. Cercherete di li supporterete in azioni individuali, oppure sarà possibile, per ottenere un ulteriore risarcimento, anche intraprendere un proseguimento, diciamo, di azione collettiva? Ma allora, noi non potremmo fare un'azione collettiva risarcitoria, perché per una scelta sciagurata non si può applicare. Quello che noi faremo è innanzitutto continuare a porre all'attenzione dell'opinione pubblica questo gravissimo caso di risparmio tradito. Speriamo che CNP, differentemente dalle proprie affermazioni, scenda a miti consigli e spontaneamente restituisca tutti quanto ha non ha corrisposto alla scadenza delle polizze. Se, come riteniamo, sulla base... Però mi scusi, avvocato Fiore, no, io capisco quello che lei sta dicendo, però di fatto il 90% delle persone a cui il risarcimento è stato proposto lo hanno accettato, ma siamo in presenza... Certo, perché questo è un elemento che... Sì, ma io non posso pensare a 6.500 persone che non sanno, non hanno assolutamente idea di quello che stanno facendo. Evidentemente no, qualcuno ha anche... compreso. Queste persone hanno accettato il risarcimento perché? Perché hanno ricevuto 3, 4, 5 comunicazioni da parte della compagnia in cui si diceva che non avevano perso tutto e di conseguenza hanno accettato il risarcimento proprio perché, a fronte della possibilità di prendere il 50% o di perdere tutto, è pacificamente un soggetto che non ha avuto la possibilità di informarsi in maniera corretta per la disinformazione posta in essere da CNP Vita e si è trovato costretto a scegliere di... Non mi faccia finire nei guai con questa trasmissione, avvocato Fiori. Naturalmente io lo so che questo, come dire, è anche un po' la solita difesa giornalistica che molto spesso utilizziamo. Io ovviamente le devo chiedere di prendersi ed assumersi la totale responsabilità anche delle affermazioni che sta facendo. Ritorniamo allora all'avvocato Daniele Sciarrillo per CNP Unicredit. Allora, il Movimento Consumatori continua a definire il comportamento di CNP come un comportamento che ha tratto in inganno 6.500 famiglie, ha parlato chiaramente di un illecito commesso appunto da questa società. Allora, io invece ritengo, anche se non è che sono mai molto tenera con le banche, anzi quasi mai, che magari questa banca avrà tutta l'intenzione di mantenere e ripristinare un rapporto con 6.500 famiglie, quindi non di clienti individuali, 6.500 comunque famiglie e clienti che non vorrà, immagino, perdere. Per cui, avvocato Sciarrillo, le permetto ovviamente di replicare alle dichiarazioni dell'avvocato Fiorio e mi dica adesso, qualora anche se solo un terzo, un decimo di queste volesse intentare una causa individuale, appunto per riaprire il discorso del risarcimento, la banca come si muoverà, la compagnia di assicurazioni come si muoverà? Allora, ovviamente la compagnia ritiene di avere correttamente svolto i suoi obblighi di informazione nei confronti della clientela e ritiene quindi di seguire questa linea anche ove, soprattutto alla luce di inopinati comunicati stampa che rischiano di indurre i clienti a promuovere giudizi dall'esito molto dubbio, e su questo punto mi permetto di segnalare e di precisare con riferimento a quanto riferito dal professor Spano, che proprio la stessa sezione sesta del Tribunale di Milano, dottoressa Bratt, altrettanto autorevole rispetto alla Simonetti, appena due mesi prima, nello stesso procedimento, aveva rigettato lo stesso ricorso dell'associazione consumatori, entrando nel merito ed escludendo a chiare lettere il presunto obbligo della compagnia di rimborsare il premio alla scadenza. No, tra l'altro, avvocato, la interrompo solo per un secondo. Molto spesso noi, quando parliamo di intraprendere azioni legali contro le banche per appunto cercare in qualche maniera di salvaguardare il proprio capitale mal collocato, diciamo, nel passato, non sempre suggeriamo questa strada, perché bisogna avere dei presupposti molto seri per avviare appunto l'azione legale contro la banca. Quindi non sempre il tribunale dà ragione al consumatore, anzi pare proprio che ci sia questa reputazione, diciamo, dell'ambito milanese che sia molto bancocentrica nelle sue decisioni. Chiusa parentesi, prego. Questo commento, ma sì, no, attengo. No, assolutamente non le chiedo di commentare, però è la giurisprudenza lo dice chiaramente, sì. No, quello che volevo precisare è che la compagnia, e non la banca, ripeto, la compagnia non ha tratto in inganno nessuno, il tribunale non dice questo, non assume questi toni così duri, ma ripeto, la compagnia ha per di più avvisato il cliente della, e quindi ha proposto la transazione con una sola missiva. La prima missiva che la banca ha inviato ai clienti non parla neanche di questa insussistenza dell'obbligo di rimborsare il premio alla scadenza, ma evidenziando la finalità di prevenire ogni contenzioso, la compagnia propone due soluzioni tra loro alternative. Sul merito delle proposte, non è vero che la compagnia ha proposto, una delle due proposte riguardava solo la restituzione del 50%, perché oltre alla ripetizione del 50%, al sottoscrittore rimane in mano, rimane in possesso di un della titolo, polizza. Sì. E non solo, ma cioè io però qui mi aggancio a un articolo apparso sul Sole il 10 settembre 2009 a firma Serafini Lauma, in cui si fa presente che la quotazione di queste obbligazioni che sono collegate alle polizze è pari al 50%, cioè si prevede che la percentuale di riparto del fallimento Lehman sarà del 50%, il che vuol dire che coloro che hanno optato per la proposta cash, cioè pagamento del 50% da parte della compagnia e mantenimento della polizza in mano al sottoscrittore, molto probabilmente e comunque nei tempi della procedura potrebbero incassare l'intero premio, se non anche una somma leggermente superiore. Vabbè, mi auguro, avvocato, ovviamente, che la modalità di comunicazione della proposta di sottoscrizione della risarcitoria in sostanza sia piuttosto chiara, perché non vorrei che fra 3 o 4 anni, quando i sottoscrittori appunto della proposta transattiva dovranno liquidare il proprio capitale, si troveranno appunto qualche brutta sorpresa perché c'era un nuovo difetto di comunicazione, cioè quantomeno che le associazioni dei consumatori potranno sollevare, quindi magari anche sulla scia di quello che sta accadendo in questi giorni, forse alla compagnia di assicurazione sarebbe utile il suggerimento di rivedere un po' come la comunicazione è stata fatta. Ma io gliela lancio lì, poi non so quanto vi possa interessare un mio suggerimento, avvocato. Il fatto del 50% è che uno rimanga in posto della polizza è chiaramente dedotto nella proposta ed è ben chiaro. A chiunque ha optato per questa soluzione. Parliamo di anche queste migliaia di persone che hanno aderito a quest'ultima proposta. Questa è la proposta cash, o la trasformazione? Appunto, parliamo che hanno aderito 1.205 sottoscrittori, mentre 4.700 hanno aderito alla cosiddetta trasformazione, che è una nuova polizza, questa garantita dalla compagnia, che nel 2012 restituisce il capitale al netto delle cedole denominata scudo 42. Ecco, volevo anche precisare che non è vero che la compagnia, come dice il legale della associazione dei consumatori, in tutte le comunicazioni avrebbe indotto in inganno o in errore, ma la compagnia è uscita, cioè ripeto, la missiva della proposta non reca siffatta interpretazione, e la bontà dell'intenzione della compagnia si evince anche dal fatto che la proposta transattiva articolata nelle due ipotesi, opzioni, riguardava tutte le polizze, quindi anche quelle che non presentano assolutamente nessun rischio. Se invece la compagnia avesse voluto, come lascerebbe intendere controparte, cautelarsi sul rischio performance, avrebbe fatto la proposta solo sulle polizze performance. E invece questo dimostra la buona fede della compagnia, che, ripeto, ha prospettato una soluzione che voglio anche far presente. All'epoca, nel novembre 2008, ci sono dispacci ANSA dell'Associazione dei Consumatori che applaudono a tale iniziativa e addirittura invitano le altre banche a seguire il modello adottato da CNP, quindi questo appena nel novembre 2008. Benissimo, avvocato, sì, no, io, sì, perché ho proprio 3 minuti, quindi vorrei anche sentire un ascoltatore, è l'unico che riesco a sentire una stamattina. Sentenza, l'unica sentenza che si è pronunciata in via per adesso definitiva, perché non risulta stata impugnata, ma nel merito, è quella del Tribunale di Bussasizio, che ha rigettato perché ha escluso tale obbligo. E ripeto, nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano, che il professore qualifica adeguatamente motivata, mi permetto di segnalare che il probabilmente è perché il collegio a pagina 9 chiaramente dice che non è in grado di dare un'interpretazione certa delle polizze. Però su Bussasizio, avvocato Sciarrillo, praticamente la decisione riguarda un solo contraente di una polizza, c'è anche un po' cosa ne pensa anche comunque del diverso contrappeso delle due situazioni, perché qua di fatto Milano ha stabilito una cosa relativamente a 6.500 persone. Sì, no, per carità, poi il peso delle ordinanze o delle sentenze non ha stabilito più che un principio, ha ritenuto che la banca, secondo il cioè, la compagnia, secondo il tribunale, avrebbe dovuto prospettare anche questo rischio nella proposta transattiva. Benissimo. Ripeto, nel momento in cui la compagnia qualifica una proposta come transazione al fine di prevenire ogni controversia, è evidente che la compagnia è consapevole e rende edotto il consumatore, che ripeto è qualificato, perché queste sono polizze non da 100 euro ma da migliaia di infatti. Euro che c'è una volontà transattiva, appunto. Avvocato, devo interromperla perché mi rimane un minuto e mezzo, allora io non riesco a far intervenire Fabio da Milano, però lui mi voleva raccontare, io lo so che è stato in attesa per tutto il tempo Fabio, ma questa era una puntata che forse richiedeva proprio oggi una modalità un po' particolare, anche a due polizze di Deutsche Bank Zurich aventi come sottostante Lima. Dopo il default la banca dice a questo ascoltatore appunto che le società non avevano responsabilità per il collocamento di questo prodotto e che le mosse future di risarcimento o liquidazione del capitale dipenderanno dalla procedura fallimentare adottata. Professor Spano, concludo con lei questa trasmissione. Ha ragione la banca appunto a sostenere questo nei confronti di questo contraente, come deve comportarsi? Qua mi pare di capire che ci muoviamo in un territorio ancora molto paludoso. Io escludo sempre di poter esprimere un parere senza avere le carte sotto occhio. Lo so benissimo che vuole tutte le sentenze. A questo punto evidentemente sono ipotizzabili due azioni, una contro l'emittente dello strumento che non è Lehman evidentemente, e l'altro contro la banca che ha venduto lo strumento per conto dell'emittente. Che idea si è fatta invece di questa vicenda di cui abbiamo a lungo parlato stamattina? Secondo me il provvedimento del Tribunale di Milano è perfetto nel suo quadro, che è quello che è stato già detto, cioè quello di un provvedimento di natura cautelare che non pregiudica né in un senso né nell'altro quella che può essere la decisione di merito dei giudici che verranno poi investiti appunto delle cause di merito. Certamente è un precedente che evidentemente ha un suo peso, perché notoriamente il Tribunale di Milano è visto da tutti i tribunali d'Italia come uno di quelli, non l'unico, ma uno di quelli più evidentemente specializzati, anche perché appunto per cause finanziarie anche per altre materie, ma comunque anche perché appunto a Milano ci sono delle sezioni che sono tutte più o meno specializzate, come questa, la sesta, che evidentemente non fa altro che trattare questioni finanziarie e bancarie, e quindi ha una conoscenza della materia un po' più approfondita, insomma. Grazie al professor Spano, grazie all'avvocato Fiori, all'avvocato Sciarrillo per essere stati con noi. Come sapete, abbiamo la sigla sotto, per cui sono costretta ad abbandonarvi, magari torneremo più avanti su questo argomento. Buona giornata.